può finire qui. Ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore, cosa vuol dire un anno d'amore. Lo so, non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai quei giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci.